fare tutta la... Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontare. E salve ragazzi, noi siamo nella radio di Risto Radio Convento e sono in compagnia dello sposo Marco Lillo e Gabri. Io Gabriele. E dell'amico testimone, cosa sei? No, io sono solo un amico. Un amico, abbiamo il un amico. Il testimone deve essere fuori, ma non... L'avete perso? Sì, in mezzo alle donne. Ma meno male in mezzo alle donne, però, Sì, non l'avete perso imboscato così ubriaco. No, in mezzo alle donne. Ma in mezzo alle donne. Vabbè, almeno c'è, fa qualcosa. Assolutamente. Quella è la cosa necessaria. Vabbè, tanto quello che si fa al convento resta al convento, quindi non sappiamo. È quello il testimone. Ah, c'è il testimone, allora, non stai in mezzo alle donne. No. Ci sei. C'è. Il playboy. Guardalo il playboy. Ok ragazzi, allora ditemi da dove venite. Bologna. Ci sono stata a Bologna, bella, cioè ci sono le due torri se non mi sbaglio. Sì, non solo, però ci sono allora, anche le due torri. La piazza è quella lì, comunque mi ricordo che è un vialone lungo se non Brava, bravissima. In evidenza poi arrivi all'incrocio con via... Non mi ricordo. Io le strade non me le ricordo, sono stata maggiore, due o tre volte. La maggiore poi arriva le due torri, comunque la Bologna è la città delle torri. Delle torri, visto? Mi ricordo. Le mi ricordo. Tre T. Sono le tre T. Però due le possiamo dire, una no. Esatto, torri tortellini, la terza non si dice. Resta un segreto. Esatto. Per chi vive a Bologna. Esattamente. Allora, ditemi un po', cosa ti hanno fatto fare nella giornata di oggi a te sposo? Un disastro. Cosa hai combinato? Voglio sapere. Un disastro. Devo dire la verità. Certo. Noi siamo qui nel confessionale per dire tutti i segreti. Lui non sapeva niente. Okay. O abbiamo cercato di fare in modo che lui non sapesse niente, non immaginasse niente. Non è stato facile. C'erano sbagli ogni minuto. Però lui era talmente tonto che non ha capito niente. È riuscita la sorpresa. Assolutamente. E questa è la cosa fondamentale. Assolutamente. Quindi praticamente abbiamo detto che andavamo a giocare a padole, facevamo del trekking. E invece l'abbiamo portato ai piedi del Passo Gavia. Con la sua bicicletta l'abbiamo fatto fare il Passo Gavia. Lui con la bicicletta, diciamo, muscolare, come si chiama adesso. E noi con la bicicletta elettrica l'assistita. E niente, quindi lui ha fatto fatica vestito da pagliaccio. No, vabbè. Assolutamente. Io sono curiosa di sapere, di vedere le foto adesso. Assolutamente. Hai presente a New York quelle persone che girano col carrello e tipo le lattine che predicono il futuro? No, vabbè, raga, voi non vedete ma non potete crederci. Poverino, è fatto di strada secondo me. Assolutamente. Quindi diciamo che l'avete portato finito stasera. Loro comodi con la bicicletta, diciamo. Muscolare, loro con quella elettrica. No. E io con quella muscolare. Mi hanno reso un pagliaccio col cappellino da pagliaccio in testa. No, non ci credo. Con i campanelli. Esatto, i campanelli suonano dappertutto. No, vabbè, no. E stasera non ti hanno vestito, però ti hanno rimasto, diciamo... No, mi hanno messo un papillon, però in questo momento ce l'ho in tasca. No, però dico, non ti hanno vestito, ci sono i frati. No, per fortuna abbiamo no. Di tutto e di più no, stasera. No, già stamattina è bastato. Andava bene stamattina? Abbiamo la trombetta. La trombetta... Quella è della bici. L'hanno tolta dalla bici e l'hanno portata con loro, giusto? Sì, la trombetta del trombatore, perché era... il testimone con le poppe in testa. Sì. Lui è quello, lo sciupa femmina, diciamo. Sì, esatto. È il playboy, quindi ci sta che abbia le tette. Guarda. Ma la verità anche prima sciupava 5 femmine contemporaneamente. No, vabbè, non ci credo. Ma allora è altro che playboy. Questo è proprio... Ha superato il playboy. No, è un grande, un grande. Non ho una... Poi ha la faccia angelica. Con Newman. È quello il problema. Che ha la faccia angelica, ma di angelico non ha niente. Niente. Sa che stiamo parlando di lui, però guarda sì, come se la immagino. Tira. Vedi, se la tira, assolutamente. Ma dai, e il matrimonio quando è? 10 di giugno. Ah, proprio prossimo. Fra una settimana. Mamma mia, sei sicuro di questa cosa? Assolutamente sì. Ma dimmi una cosa, ma perché ti sposi? Perché mi sposo? Se non lo sai tu. Vabbè, non dire per amore. Vabbè, è la risposta più semplice, la più ovvia. Ma non va bene. Perché no? Io non l'accetto come domanda. Per sesso. Vabbè, ci può stare, vedi, è già diverso. Per sesso. Però per sesso che comunque adesso non fai da due settimane. Per forza ho la suocera. Ha messo l'astinenza. Ho la suocera in casa, per forza, non faccio ma sesso. Ma prima del matrimonio non puoi farlo, mi dispiace. Quindi mantieni e rispetti le regole. Anche lei nel video ci vuole, anche lei. Ci sono anch'io, ci sono, okay. Ci sono. Assolutamente. Però fai play. E quindi immagino che la prima notte sarà un fuoco non indifferente, calcolando che sei da due settimane in astinenza. Ma considerando che la prima notte sarà quella del matrimonio, penso che sia invece una dormita e basta. E il giorno dopo sarà, secondo me, dopo il riposo. Il giorno dopo sarà diverso, esatto. Spero almeno. Perché comunque lui ha preso delle camere nell'agriturismo dove facciamo il matrimonio. E io e lo sposo dormiamo in camera con lui. Ah sì? Questa è un'altra sorpresa. Questa è un'altra sorpresa che non sai, vedi? Culla, spero che non facciano molto rumore perché abbiamo il sonno molto leggero. Adesso hai il suocero, il giorno del matrimonio hai gli amici in camera. Ovvio. Diciamo che è impossibile. Secondo me mi conviene scappare. Se non con gli amici insieme, una mucchiata. Esatto. Chiudono gli occhi e fai tutto tu, dai. Esatto. Fanno finta di dormire, va bene? Esatto. Va bene, ragazzi, poiché sta quasi finendo la serata, io vi lascio proseguire fuori a ballare e a divertirvi, va bene? Grazie. Grazie a te, è stato un piacere. Grazie. Un bacio. Alla prossima. Ciao. È bellissimo sta cosa.